se è meglio accettare una squadra che comunque fa il suo dovere fino in fondo, o chi magari altri tipi di comportamenti, e mi fermo qui perché non voglio prendere le querele, se no mi tocca vendermi anche la cuccia del cane, vedi se dico quello che penso. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Andiamo giù senza paracadute. E ancora giù, sempre più giù. Cadiamo nel vuoto di questo idillio ormai finito. Paracadute è la parola del giorno oggi. Paracadute, parachute. Grande album dei Coldplay, eh? Certo. Comunque oggi c'è Pardo qui con me per una puntata ricchissima di temi e di ospiti. Si comincia con il paracadute, che è quello che accompagnerà il dolce atterraggio del Verona in Serie B, così come del Frosinone, così come probabilmente del Carpi, perché Castori, se parla, gli abbiamo sentito prima, gli tocca vendersi pure a cuccia del cane. Esatto. Allora, la storia è paradossale. Perché c'è un calendario di una tremenda perfidia. Anche un po' sfigato, diciamo la verità. Perché adesso no, veramente. Si può discutere sul paracadute e il fatto che sia giusto o meno che ci sia. Però qui veramente ci si è messo il destino con un calendario che, insomma, il diavolo ci ha messo la coda, mamma, e con la coda ha scritto Palermo-Verona all'ultima giornata. La storia è questa: sono 60 milioni di euro del paracadute previsti per chi retrocede. E anche su questo ci sarebbe da discutere, perché è chiaro che chi già a partire dal campionato di Serie B si trova in una situazione, in una condizione di inferiorità. Infatti in Serie B questo paracadute non piace moltissimo. Comunque, 25 di questi milioni li prenderà il Verona, 10 li prenderà il Frosinone. Dovesse retrocedere anche il Carpi, piglierebbe 10 milioni pure il Carpi, perché Carpi, esatto, e Frosinone sono rimasti in A un anno solo. Mentre il Verona, 3 anni in Serie A, prende 25 milioni, il Palermo, 3 degli ultimi 4 anni in Serie A come previsto da normativa, dovesse retrocedere prenderebbe 25. Quindi 25 più 25 più 10 fa 60. E a quel punto non rimarrebbe più niente nelle casse. Se invece retrocedono Carpi e Frosinone, avanza una quindicina di milioni che sarebbero l'ulteriore. Ecco Marco Beninazzo dal Sole 24 che Ore. Che adesso, perché questo non è l'unico paracadute di giornata, come avete sentito anche nel GR c'è il paracadute cinese per il Milan. Esatto. Adesso cominceremo a parlarne. In tua vece sto provando a illustrare in maniera pedestre il meccanismo del parachute. Innanzitutto, che è successo? Sei trafelato? Che hai fatto? Hai fatto la trattativa del pomeriggio? Hai fatto? Diciamo che si stava seguendo questo CDA. Come è andato? Beh, ho scritto poco fa su Twitter che si attende il comunicato. Bella comunque questa idea di raddoppiare lo stipendio dei conduttori dei programmi sportivi in chiaro su Italia 1 di seconda serata. È stato deciso questo, no? Sì, no, in particolare no. Si parla di un certo Pardo, Pierluigi Pardo. Gigi Pardo. Che dovrebbe avere, come dire, i maggiori benefici da questa decisione. Sì, sì, sì. Parte dello stipendio sarà pagato da Pechino. Pechino Express. Rai 2, facciamo una coproduzione. No, a parte le battute, quindi che si dice? Poi adesso torniamo al paracadute, però qua l'attualità è che... C'è notizia o no? C'è il comunicato che ci sarà tra poco sull'apertura ufficiale della trattativa in esclusiva, che vuol dire tutto e niente, nel senso che chiaramente è un'apertura di fiducia. L'esclusiva, ricordiamo, era stata concessa anche a Mr. B, era poi scaduta alla fine di settembre del 2015, però qui, come dire, le basi sono diverse, perché l'offerta e la richiesta sono molto, molto chiare, no? C'è sempre e solo parlato di pacchetto di maggioranza e addirittura di un acquisto poi totalitario nell'arco di un biennio barra triennio. Questa trattativa in esclusiva dovrebbe durare un mesetto, alle 4 alle 6 settimane. L'idea quindi è molto chiara da parte dei possibili acquirenti di questa cordata. La Fininvest ha ricevuto adeguate garanzie, insomma i consulenti non sono, vincolante, però quindi Berlusconi sono può lavoro, chiamarsi fuori. Sì, Berlusconi ha preteso quest'ultima via d'uscita, i cinesi l'hanno concessa, a quanto pare senza penali. Perché ritengono, insomma, che la loro offerta sia davvero irrinunciabile. Questa trattativa esclusiva è un po' come quando devi vendere una casa e ritiri un'offerta, quindi blocchi tutto il resto? Esattamente, ah. Diciamo che da questo momento in poi, dal momento in cui è stata firmata, cioè, la Fininvest non potrà trattare con altri soggetti, la cordata avrà pieno accesso alla documentazione, ai bilanci, insomma, ai contratti in corso, e si potrà quindi fare un'idea più precisa su quella che è la situazione del Milan. Ma anche indiscrezioni di un Berlusconi non convintissimo, però, perché questo è stato detto. Guarda, allora aspetta Marco, sì, fermiamoci per il traffico e poi torniamo ai cinesi, ai paracaduti, a tutte queste cose, invitando anche voi 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Convocati. A chi mi dice che bisogna vendere, rispondo che ci sto provando da un anno, ma che vorrei lasciare il Milan in buone mani e in mani che gli garantissero un futuro da protagonista e preferibilmente in mani italiane. A questo fine, qualsiasi suggerimento è il benvenuto. Mani non sembrano proprio quelle italiane che vorrebbe Berlusconi, ma comunque sono qualsiasi suggerimento è benvenuto. Che vuol dire? Che possiamo fare proposte. Sì, io avevo già preparato una lista. Peraltro questa trattativa non è esclusiva. Cosa propone Berlusconi? C'è ancora spazio qualora diciamo decidesse. Posso dire, per esempio, Squinzi. Beh, se ne è parlato molto da tempo. È un'idea possibile, plausibile? Guarda, secondo me no, perché Squinzi ha messo su un gioiellino a Sassuolo con un progetto molto ampio, insomma, che prevede poi ora un centro sportivo all'avanguardia, c'è lo stadio, insomma. Grande lavoro sulle giovani, sì, è un progetto molto articolato. Sarebbe davvero impensabile, insomma, un passaggio dal Sassuolo al Milan, anche perché poi avrebbe dovuto cedere il Sassuolo per una questione proprio di incompatibilità con tutto quello che ne consegue, insomma. Non è un'ipotesi. Era affascinante a questo punto, ma non mi sembra plausibile, insomma. Altri gruppi italiani chi possono essere? Facciamo un gioco di fanta finanza. Guarda, si è chi parlato, ha i soldi per comprare il Milan? Luxottica, Ferrero, signor Del Vecchio, signor Ferrero. Luxottica e Ferrero sono i numeri uno, insomma, da Barilla, questo punto di vista. No. Barilla, sai, si è impegnato nel progetto Parma, di ricostruzione del Parma, e non ha voluto per esempio comprare il titolo sportivo per ripartire dalla B, ma ha voluto impostare un progetto tutto suo, sia pure con altri soci, sia pure con una partecipazione popolare, per cui non mi sembra interessato a questo tipo di iniziative. E dopodiché, insomma, i nomi cominciano a scarseggiare, Quindi diciamo Xottica, Ferrero, sai, ha fatto una scelta di vicinanza allo sport, ma in termini soprattutto di sponsorizzazioni, con un target posso dirti, ben preciso. Proprio da profano, mi sembra che abbia sempre cercato una visibilità relativa, no? Cioè, mi sembra che. Però questo forse anche Luxottica, anche assolutamente, del vecchio. Cioè, sono quegli imprenditori che mi sembra difficile immaginare che possano trarre o considerare positivo e di giovamento la visibilità. Perché il calcio ti dà ovviamente un ruolo anche politico straordinario, di visibilità, anche di narcisismo in certi casi straordinario, però ti dà anche delle rischie delle tue scatole. Nel senso, se tu magari sei il numero uno di un'azienda che fattura e nel tuo mondo sei il numero uno, poi perdi tre partite e c'hai la contestazione con gli ultra sotto casa, no? Chiaro che non solo gli ultra, anche no, quelli della tribù, insomma. Devi avere denaro e devi avere voglia di per buttarti molta pazienza e quando hai una multinazionale da gestire, insomma, diventa un problema, soprattutto quando parliamo di realtà già affermate con marchi che hanno la loro visibilità a prescindere dal calcio. Quindi è chiaro che in questo momento ogni possibile interrogativo, ogni possibile illazione sul futuro del Milan squadra è bloccata, giusto? Per un mese. Beh, per un mese credo che si possa, si debba fare inutile. Poco, perché chiaramente qui stiamo parlando non di un socio che entra con pari poteri, ma qualcuno che va a comprare la maggioranza. C'è, devo dire, forse una parte del riserbo ancora di Berlusconi e del suo scetticismo riguarda anche l'insieme dei cinesi, quindi la composizione di questo consorzio, perché i nomi che sono stati forniti a Fininvest e che io non conosco, ammetto questa lacuna, comunque non rientrerebbero nel novero di quei nomi di prima fila di cui tanto si è discusso in queste settimane. Ora, che a trattativa conclusa e quindi senza esporsi troppo qualcuno di questi grandi gruppi cinesi possa, come dire, rivelarsi, può essere. Però al momento abbiamo imprenditori con grandi liquidità, ma non nomi particolarmente noti in Occidente. Questo, diciamo, è quello che al momento trapela, ed era uno dei motivi, diciamo, di indecisione di Berlusconi, perché avrebbe voluto mettere le mani dell'Inter. Sai, arriva Jack Ma di Alibaba. Del Milan, eh? Non del ci Milan. Sono. Al Milan i problemi sono molto relativi. Diventano improvvisamente molto relativi. Per capire chi è. Si è detto che Jack Ma potrebbe essere dietro comunque questa cordata con una sua azienda personale. Certo, insomma, ma per ora non si è rivelato. Al momento ufficialmente il nome non è stato fatto. Rimane nascosto dietro al... Beh, dopo quello che è successo... Come andrà a finire, Berinazzo, dai? Un retroscena vi posso raccontare è che ultimamente Berlusconi avrebbe chiesto ancora di Mr. B. Ah. Quasi in coincidenza, diciamo, con quel videomessaggio, un po' per una sorta di, comunque, di feeling che si era instaurato con Mr. B, e che con questa cordata non c'è. E soprattutto perché Mr. B aveva, come dire, chiarito, al di là, sarebbe ora lungo, insomma, ripercorrere tutta la storia, ma aveva chiarito che lui si sarebbe occupato, come dire, della parte commerciale, e avrebbe lasciato il giocattolo sportivo nelle mani di Berlusconi. Per Berlusconi, questo, insomma, era il massimo, era quello che voleva, e quindi in qualche modo, insomma, la simpatia, l'empatia tra due si capisce. Sì. Beh, allora sentiamo Marco, poi voglio fare due parole sul paracadute. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io la chiamo dalla provincia di Verona, da Pescantina in provincia di Verona. Sì. Naturalmente non chiamavo per il Milan, ma bensì per il discorso paracadute. Sì. Insomma, ecco. Allora, non è un tono polemico che voglio fare, è che aspettavo una trasmissione, una dedica a questo fattore, perché fatalità questa volta tocca a noi. Però volevo ricordare, da tifoso e da abbonato, che noi paghiamo anche Sky e dove vediamo la nostra squadra un quarto d'ora scarso dopo mezzanotte. Ma qua nel nord-est, al mattino alle 6 sono alla sveglia per andare al lavoro. Per non parlare di Chitaga, che comincia e finisce tardi. Lo so, ha ragione. Quindi, guardi, io le dico... Se una volta tocca a noi, penso che... Ma tocca a noi cosa? Infilare paracadute? No, ma meglio noi delle altre squadre? No, ma allora il discorso, tanto per chiarire, è questo. Il Verona retrocede, 25 milioni li prenderà comunque. Se si porta appresso il Palermo, cosa di cui mi permetto di dubitare, essendoci questo malvagio scontro diretto alla fine, non avrebbe l'ulteriore possibilità di un paracadute per la stagione successiva, nel caso in cui non dovesse tornare in Serie A. Esatto. Quindi si alienerebbe la possibilità di prendere questi futuri ed eventuali qui ulteriori 15 milioni, che comunque il Verona non vorrebbe mai vedere, perché è ovvio che conviene tornare immediatamente in Serie A. Beh, sì, perché semplicemente aggiungo... No, però io posso chiedere, Benazzo, sì. Lo chiedo proprio a te, perché sei un esperto della materia. È cervellotico, cioè è sfiga, te lo dico proprio in francese, cioè è la sfiga di quest'ultima giornata che crea questo caso abbastanza cervellotico e abbastanza poco probabile, che fa sembrare tutto una mostruosità, oppure invece il meccanismo di per sé ha delle pecche? L'obiettivo era sicuramente condivisibile. In premio il paracadute è 70 milioni dato per 3-4 anni all'anno a ogni squadra finché ovviamente non dovesse ritornare in Premier. Quindi è chiaro che va salvaguardato. Il problema vero qual è? Sempre in Serie A prendi 20-25 milioni almeno di TTV, vai in Serie B, perdi completamente questa voce di entrata. Quindi si è cercato di porre rimedio. Lo si è fatto, secondo me, frettolosamente, con regole arzigogolate. Molti dicono, come al solito, che è colpa di Lotito, che avrebbe chiesto insistito, determinate come dire, correzioni, introducendo la norma per cui bisognava considerare 3 anni di permanenza su 4 per dare il massimo del contributo di 25 milioni. Io dico che è cervellotico. Detto questo, è chiaro che l'anzianità va premiata, l'anzianità di permanenza in Serie A, si poteva trovare un meccanismo migliore. Le polemiche di questi giorni, secondo me, valgono fino a un certo punto, perché il problema qual è? Che è il calendario, prendi 20... Diciamo il problema, che questo caso scoppia il finale però questa, ragazzi, questa è la sfiga, sì, però, quando sbagli come sì, dire, dici, poi la fortuna c'è, che la sfiga ci viene benissimo, appunto, okay. Ti attiri proprio questo tipo di situazioni, e sarebbe stato meglio evitarla, anche perché quando è stato deciso un paio di mesi fa il paracadute, il calendario si conosceva, e si conosceva anche quali erano più o meno le squadre, erano queste quattro, quindi insomma, era in qualche modo prevedibile, si poteva prevedere, e di conseguenza io credo che i tifosi hanno tutta la legittimità di questo mondo per pensare quello che vogliono, però come dire, il Verona dovrebbe fare un ragionamento per cui vabbè, vado lì e vado in B, prendo i primi 25 milioni, Carpi e Frosinone prendono 10, e nel caso in cui non andassi in Serie A subito mi ritrovo altri 15 milioni. Però è chiaro che il Verona, come dire, ha tutto l'interesse a tornare subito in A. Perché il Verona prende 25 milioni stando soltanto i diritti di TV in Serie A, quindi si condannerebbe a perdere 10 milioni. Chiaramente poi nel momento in cui dovessero andare male le cose, restasse per 2 anni in B, gli farebbero comodo quei 15 milioni non dovendoli dividere con nessun altro. Andavano scritte meglio le norme sicuramente, però se cominciamo insomma a fare questo tipo di dietrologie, insomma, cominciamo ma io posso vedere il messaggio, questo messaggio secondo me è abbastanza indicativo, al di là del fatto che appunto ci sono chiaramente delle zone d'ombra di questo provvedimento, non è perfetto, però c'è un ascoltatore che ci dice: il Verona ha perso con Carpi e Frosinone in casa e Zamparini grida al complotto, ora Castori grida al complotto invece di arrabbiarsi col giocatore sbagliato i rigori. Cioè, secondo me alla fine siamo pure noi machiavellici, cioè siamo anche noi con la cultura del sospetto, perché guardate che in Inghilterra non avranno avuto questo tipo di paracadute con queste norme, ma di situazioni nelle quali potrebbero pensare male ce ne sarebbero a migliaia. Il famoso caso di Manchester City, che vince 3-2 con 2 gol negli ultimi 4 minuti, col QPR salvo. Insomma, ragazzi, fosse successo in Italia ci sarebbero state le interrogazioni parlamentari. Quindi io quello che dico è siamo fatti così, accettiamoci per come siamo. Secondo me c'è molto questa cosa. La lezione da imparare, scusami Pier, è che le regole vanno scritte a inizio campionato. Tutti le devono conoscere, non si modificate in corso d'opera. Qui si è cercato di porre rimedio, tra l'altro anche con una polemica ora che sta nascendo tra Serie B e Serie A, perché giustamente tra virgolette la Lega di Serie B e il presidente Abboti dicono: va bene, siccome queste squadre arrivano con un ricco bottino, non gli diamo la quota di mutualità che la passa alle squadre di Serie B, perché sennò sono troppo avvantaggiate e sfalsano il campionato. Allora, delle due mettiamoci d'accordo, perché è chiaro che il caso Catania, al di là delle attività illegali che sono state poste in essere, è il frutto di del vecchio paracadute che costringeva le squadre che arrivavano dalla Serie A a tornare subito sopra, perché altrimenti rischiavano il fallimento qualora non avessero smantellato la squadra. Il Catania si è trovato con Pulvirenti invece sulla soglia della Lega Pro, si è scelto una via assolutamente illegale da biasimare, però dal punto di vista economico quel problema è nato anche per queste disfunzioni del sistema. Ora va bene la sportività, ma anche indursi nel caso del Verona un danno, sia pure potenziale, sarebbe in qualche modo. Ma poi comunque il Verona gioca fuori casa, da retrocesso in casa del Pairo. Adesso Cioè, non è che dobbiamo. Secondo me, questa cosa paradossalmente potrebbe aumentare l'impegno del Verona per dimostrare. A parte che il Verona si sta impegnando, ha battuto la Juve, ha fatto una buona figura anche col Sassuolo. Insomma, io credo che ci sia un miglioramento negli ultimi anni. Anch'io. Dopo, anche dopo anche le note vicende. Forse noi italiani, se mi passi questa battuta, abbiamo bisogno di uno scandalo ogni 10 anni. Così, questo non ci fa abbassare la guardia, no, dei comportamenti un po' da furbetti. Siccome c'è stato uno scandalo abbastanza recente, abbastanza pesante, mi sembra che nelle ultime stagioni, lo diciamo anche ieri, è molto più divertente andare allo stadio anche per i telecronisti. Allora, c'è molta più incertezza sul risultato. Bastava semplicemente dare 30 milioni al Verona, 15 al Carpi, 15 al Frosinone. Festa finita. Primo anno, nessun problema. Nessun problema, certo, si tagliava la testa al toro. Ci fermiamo per la borsa. Ringraziamo Marco Verinazzo, alla prossima. Vediamo se è arrivato il comunicato. Non è ancora arrivato il comunicato del signor Finimeri. C'è il comunicato. C'è il comunicato. Attenzione, attenzione. Dopo la borsa lo leggiamo. Lo leggiamo? Rimani qui, Berinazzo, per la risposta. Resto qualche minuto. Sono curioso. C'è anche dell'eccitazione in te quando arrivano questi comunicati, eh? Nello sguardo. Viviamo per questo. C'è il comunicato. Allora, borsa, torniamo. E poi comunicato, eccezionale! Ritengo veramente un miracolo che il Palermo quest'anno si sia salvato. E grazie ai ragazzi, grazie a Ballardini che nelle ultime partite hanno dimostrato come si possa ricompattare e come i valori tecnici possono tornare fuori. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, il comunicato c'è. Ci siamo tenuti è per arrivato qualche... No, il comunicato è arrivato. Altro minuto, Marco Brinazzo. Sentiamo un attimo Mauro da Verona che ci aspetta da prima. Mauro, così un po' di... aumentiamo la suspense. Buongiorno Mauro. È quello di prima, se è Mauro da Verona. Di prima? No, ma no, è un altro da Verona. E chi è, cos'è? Radio Hellas? Radio Hellas. Radio ma Mauro Hellas. Evidentemente non... Vabbè. Non ci ha aspettato. Allora, comunicato. Che si dice? Beh, chiaramente, come anticipavamo, insomma, c'è l'apertura della trattativa in esclusiva. Nel comunicato non viene specificato il periodo, ma dovrebbero essere tra 4-6 settimane. Insomma, credo che abbiano fatto bene a non specificarlo per evitare, come dire, sì, poi la corsa alla scadenza, eventuali proroghe che fanno solo. Però c'è scritto in tempi male, comunque compatibili con tutte le varie attività calcistiche. E in particolare poi con la programmazione della stagione, insomma. Sì. Ripeto, anche Mister B aveva avuto un'esclusiva, ma i presupposti della trattativa erano diversi e molto più complessi, perché c'era il passaggio in borsa, quota di minoranza, e questo poi alla fine ha fatto franare tutto. Qui invece c'è una precisa volontà della cordata cinese, e c'è dall'altra parte, in particolare sul fronte Fininvest, la volontà di cedere. Berlusconi si è persuaso che questa strada va seguita, ovviamente conoscendolo, da qui a quando saranno firmati i contratti, insomma, fino all'ultimo momento, certo, si potrà sempre tirare indietro. Ma ripeto, i cinesi confidano nella bontà della loro offerta, non hanno chiesto penali, almeno non ne risultano, e quindi non ci resta che attendere l'evoluzione di queste settimane. E comunque, evoluzioni che comunque arriveranno in tempi brevi. Io qua per ho tra l'altro recuperato un Milan passi in avanti nella trattativa del 28 aprile del signor Berinazzo. Vabbè, grande, vabbè, ho capito, tu fai il modesto. Non ci autocelebriamo. No, io sto celebrando te, che se sì, no, l'avessi tirato fuori tu. Come compagnia. Come compagnia di giro. Vabbè Marco, stiamo allacciati. Vediamo. Teniamoci connessi. Vediamo quali particolari emergeranno nel pomeriggio. Grazie Marco. A presto. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Allora, Sara Tardelli è innanzitutto un'amica, non sì, solo di Radio 24, ma anche nostra. Sì, sì, l'ho anche incontrata ieri, L'ho incontrata ieri. Come stai? Bene, tu? Poi so che tu hai incontrato la mia matrigna all'aeroporto. Sì, vero? Sì, è stato un momento incredibile. Mancava solo Marco, che però è in linea, linea 2. Marco Tardelli invece è Marco Tardelli. Ciao Marco. Ciao. Come stai? Abbastanza bene, grazie. Tutto bene. Bene. Sentire, come questa... mai papà sono abbastanza? Perché non sono vicino a te. Che tenerezza! Mamma mia, che tenerezza. Sentite, com'è scrivere un libro insieme? Chi deve rispondere? tutte e due in coro. È fantastico. Vai, facciamo un'altra domanda. Che giorno è della settimana oggi? Credo martedì. Credo. Sei più rapida, perché c'è qualche anno di differenza, c'è. No, com'è questo? Allora, scrivere un libro, a parte che l'atto di scrivere un libro è super affascinante, ma averlo fatto con mio padre, ci pensavo proprio ieri sera, in realtà mi ha calato per la prima volta sul serio, su tutta la sua carriera, i ricordi, la vittoria dell'82, perché io avevo un po' paura, no, di calarmi troppo nelle sue emozioni, nelle sue vittorie, perché dico, io devo pensare alle mie. E invece, scrivendo questo libro, finalmente come se avessi gioito veramente per la prima volta. Hai fatto anche quindi tu l'urlo, l'urlo storico. Marco, ma tutto niente... Io quelli faccio sempre. Tutto niente è la storia, è la storia della tua vita, ma è la storia, credo, di tutti i grandi sportivi, di tutti quelli che insomma sono legati a un centimetro di un pallone che entra o che esce in una finale. È anche questo tutto niente? Ma è più il carattere, è più le sensazioni che avevo, perché io ho sempre voluto tutto o niente, ma non nel calcio, nella mia vita, non volevo compromessi, la realtà è questa. Non ho mai scelto dei compromessi per raggiungere le cose, di conseguenza a volte arrivava tutto, a volte arrivava niente. Ecco perché abbiamo chiamato il libro, abbiamo intitolato il libro. Ma per te com'è stato scrivere con Sara, con tua figlia Marco? Un inferno perché no, io ho voluto scrivere con Sara questo libro perché mi fido di lei, è una ragazza molto intelligente che a volte sembra che non sia nemmeno mia figlia. E, vabbè. È stato molto bello, anche se lei è una che pressa molto, è una che vuole le cose fatte sempre in maniera perfetta, e di conseguenza mi ha abbastanza fatto lavorare, ecco. A volte cercavo arrivo dalla cantera minogliana, lo so, è la cantera minoliana, è vero. Beh, i minoliani sono bravi, però . Tutto bene, insomma, in fondo poi mi è piaciuto molto. C'è stato qualche episodio che è stato più difficile raccontare a tua figlia? Io so che voi girate sempre intorno a quella cosa, quale cosa? Già, ascolta, già per aver detto no quale cosa significa che quello, però non sappiamo fingere. Non è stato difficile perché non gliel'ho raccontato io. L'ho scoperto da solo. Beh, per questo è giornalismo d'inchiesta, sempre per la cantera minoriana. Senti, chiaramente tu hai avuto una carriera straordinaria e ridurre tutto, enfatizzare troppo quell'urlo, quella corsa, potrebbe essere anche sbagliato. Però tu lo fai nel libro e parli di scossa elettrica, parli di una cosa che ha cancellato il prima e il dopo. Non si può riassumere una carriera straordinaria come la tua in quel momento lì, oppure sì, oppure invece in realtà il momento che vale una vita intera sono quei 7 secondi? Beh, certamente quei 7 secondi sono un bel momento e potrebbero valere una vita intera, ma in realtà non è stato così. C'è stato anche un momento un po' che ho odiato questo urlo, perché tutti si erano dimenticati del resto, però poi alla fine, ragionandoci, ho detto comunque vale la pena di fare e di avere teniamocelo stretto perché è veramente un momento indimenticabile, soprattutto per chi fa questo lavoro. Ecco, perché i 7 secondi più belli della tua vita, Genta, quali sono stati, per esempio? Che domande sono? Non è facile, così all'improvviso. Sì, non, adesso, e poi comunque, ecco, appunto, manteniamo. Sara, tu? Ma sai che non, io non lo saprei. Lo so, è dura. È dura, perché poi voglio dire, che se tu mi chiedi di paragonarmi ai suoi 7 secondi diventa quasi impossibile, perché insomma non capita a tutti. Sara, rispondiamo così, a questa domanda a tradimento di Pardo, quelli che devono ancora arrivare. Esatto. Bravo! Magenta, ragazzi. Magenta è tanta roba. Grazie, aspettate un attimo. In questo siete fortunati, perché voi sperate ancora in quelli che devono arrivare. Io ormai l'ho già fatto. Buttiamoci giù. C'è il traffico. 7 secondi di traffico. 7 secondi di traffico. 17, poi sarà Marco Tardelli di nuovo. Tutti convocati. Convocati. Guarda, sempre con noi Sara e Marco Tardelli, Tutto o Niente. Tutto o Niente, c'è anche un altro grande ricordo, insomma, diciamo, la testa di serie numero uno dei momenti epici di Tardelli in nazionale è quel gol con la Germania, al secondo posto c'è Italia-Inghilterra dell'80, penso, sì, infatti no? Ho un messaggio, sono un ragazzo del 72, per me l'urlo di Tardelli è quello dell'80 contro l'Inghilterra. Sì, è stato bello anche quello, devo dire, poi fatto nello stadio che mi ha caratterizzato un po' nella mia carriera, mi sembra una cosa molto importante, però devo dire che quello dell'82 rimane sempre quello più forte. Tu, Sara, com'è la vita della figlia di un calciatore, di successo? Spostiamo l'attenzione sulla dottoressa Sara. Spostiamola. L'attenzione su di me. Spostiamola. Beh, dai, non posso certo dire che non sia una bella vita, anche perché hai tutti gli amici di papà che sono tutti giovanissimi, perché quando lui era alla Juventus venivano da noi ragazzi che poi avevano 23, 25 anni, 26, quindi è un ambiente molto divertente, molto vivace. Poi certamente ogni tanto crescendo può diventare problematico, no? Perché se ti devi confrontare con il successo dici caspita, però certo, se la farò ad arrivare ad essere brava nel mio lavoro come lui, e poi a un certo punto dici ma smettila di chiedere. Esatto, ma chi se ne frega? Anche perché comunque hai... Io cucino meglio, ecco, per esempio, scusa. Sono categorie diverse. No, diciamo. Non lo so. Sono diverse categorie dello stile. Attenzione, non lo so. Attenzione. Sfida gastronomica. Sfida i fornelli. Ma... Se... Lui sa fare solo il risotto. Solo quello, però. Vabbè, se era un modo carino per invitarci a pranzo, noi veniamo. Senti, ma invece si discute molto su chi è il Tardelli contemporaneo. Si è parlato molto di Marchisio. Tu che idea ti sei fatto? Anche qui c'è un pantheon di aspiranti tardelliani per caratteristiche. Sì, ma è sempre difficile paragonare i giocatori, i tempi sono diversi, è cambiato la mentalità, sono cambiati gli allenamenti, ti prende in giro, no. ti sta sottilmente prendendo in giro, stai dicendo banalità, questo è il sottotesto, era questo, che stai parlando da calciatore, con tutto rispetto per i calciatori che sono però diciamo meravigliosi. Che in questo momento non c'è nessuno. In questo momento Marchisio, in che anche cosa? Perché Marchisio si è fatto male, no. Credo che Marchisio potesse somigliarmi anche fisicamente, e anche lui è uno che andava dentro a centrocampo, riusciva a far gol, riesce a far gol lui, e di conseguenza è un po' meno difensore di me, io ho fatto anche il terzino, di conseguenza ero un difensore attaccante, lui forse è un centrocampista attaccante. Eri pure bello, io sto vedendo delle foto di quelle proprio. Ecco, questo non ci sono dubbi. Anche Marchisio è bello, non so, Sara, vuoi confermare? Credo che non ci siano dubbi. Marco Tardelli era un sex symbol di quegli anni. Non è male. Voglio dire, sai, noi sex symbol comunque alla fine siamo sempre costretti, Marco, a dimostrare che c'è di più. La prendete larga, ma poi arrivate sempre lì. No, invece vi voglio dire: i sex symbol erano Tardelli e Cabrini, e io ero innamorata di Paolo Rossi. Infatti sei cieca, Sara. Per dispetto, sei cieca. Senti, Sara, qual è l'amico di papà cui più sei legata? O gli amici di papà cui sei rimasta più legata? Sono tanti, vabbè, sì. Dino, Zoff, sì, sicuramente, Mariella Sirea, Paolo Rossi, insomma, ieri ho visto Claudio Gentile, io sono sempre molto felice di rivederli, perché quando si rivedono loro io invidio quello il loro sguardo, perché come se ritornassero ai momenti che hanno condiviso insieme ogni volta che si incontrano, e allora li invidio molto per questo rapporto. Questo non è strano. Marco, un'ultima cosa, ci troviamo con una nazionale con pochi giocatori e senza commissario tecnico, qualche idea? Commissario tecnico c'è l'europeo e Conte farà bene, sono certo, abbiamo dei grossi problemi, abbiamo una sfiga pazzesca, dai, se fa male uno ogni mezz'ora parliamone adesso, poi d'accordo a essere cartesiani, però abbiamo tecnicamente abbiamo avuto un po' di infortuni, ma io credo che l'Italia poi alla fine riesca sempre a far bene. Sì, e dopo Conte? Qualche idea? Dopo Conte, la mia idea è di trovare un tecnico federale, perché così si risolve il problema per sempre. che senza l'intrusione dei club. Il tank confederale per me è importante, e Berzotto era un tecnico federale e ha fatto bene, e Maldini praticamente ha iniziato non come tecnico federale, ma poi lo è diventato per tanti anni e ha fatto bene, no? Io credo che chi conosce l'ambiente è avvantaggiato. Grazie Marco, grazie Sara. Grazie tutto a voi. Niente, tutto grazie niente. A voi. Oh, niente. Nelle migliori, nelle peggiori librerie, tutte, in quelle, pure in quelle medie. Esatto, quelle... esatto. Noi va bene tutto. Esatto, quelle affollate, quelle meno affollate. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, Sergio ciao. Da Milano, come stai Sergio? Bene, benissimo, grazie. Tutto a posto, sei eri tardelliano, quanti anni hai? 62. Io ho scoperto il calcio tardi perché ho iniziato a giocare a 38 anni e mezzo in seconda categoria. Mio figlio ha iniziato a 10, a maggio, io ho iniziato a novembre dello stesso anno. Ho iniziato dopo il figlio. Ha capito, questo è già particolare. Credo che è più particolare statisticamente. E in effetti io avevo già chiamato una volta per una questione statistica, ho detto ci sono due squadre che hanno fatto lo stesso risultato per 5 giornate, che erano il Genova e la Juventus. Mi ricordo che aveva detto non l'avevamo notato, no? Forse non se lo ricorda, ma aveva fatto questo commento. Sì. E adesso io ho trovato un altro dato, cioè onore, non voglio assolutamente ridurre i meriti di Ranieri, no? Ma volevo evidenziare che i bookmaker che l'hanno dato a 5.000 hanno fatto un qualche cosa che dal punto di vista statistico dell'analisi dei dati è decisamente fuori. Perché la squadra di Ranieri, cioè non di Ranieri ma del tecnico precedente, in 9 giornate aveva fatto 21 punti. Ranieri in 4 volte 9 giornate ne ha fatti solo 77 invece che 84, sì, sì, che sarebbe 4 volte 21. Perciò questa squadra era partita a 1.000, infatti quasi mi stupisco che 5.000. Però guarda, io adesso non voglio fare l'esperto quotista, infatti questa è una cosa carina, potremmo contattare nei prossimi giorni per cercare di capire se ci hanno rimesso o ci hanno guadagnato, ma di solito, mi dicevano persone più esperte di me della materia, quando ci sono queste sorprese clamorose, in realtà poi ci guadagna il bookmaker, nel senso che ci saranno stati 4 che avranno vinto la loro posta per 5.000, ma ci sono stati altri 100.000 che hanno puntato sull'Arsenal, sul City, sul Chelsea, sul Liverpool e sullo United. Siamo un discorso statistico, io e la statistica siamo due cose completamente diverse, però mi sembra un discorso statistico anche questo, quanti, cioè si contano sulle dita di una mano, li conosciamo per nome, ormai hanno la loro storia, quelli che hanno puntato sull'Ester, mentre tutti gli altri hanno puntato su squadra. Bene, non vorrei commettere errori, ma di solito quando ci sono grandi sorprese il bookmaker festeggia. Senti, fra un po' abbiamo Bartoletti, sì. Poi ci occuperemo con Alessandro Moggi di una iniziativa che riguarda il mondo social con delle adesioni top. Fantastico. A Londra, un grandissimo evento. Poi abbiamo un po' di giro, no? Sì. E poi abbiamo tanti ascoltatori. E certo. 80024. 0024, ma che vuoi di più? Ti è piaciuto questo momento di grande intraprendenza? Ci fermiamo? Ho beccato pure l'uscita, mi sento quasi commosso. Adesso che cosa c'è? Il GR. Il GR, tutto so, tutto. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. E noi torniamo, caro Pierluigi Pardo, dopo aver dipanato la matassa Milan, o quasi, dopo aver capito che il paracadute è utile ma non così tanto. E dopo aver chiacchierato con Sara e Marco Tardelli, un sacco di messaggi, tra cui un Tardelli era bellissimo. c'è sì, Mimmo che ci scrive se i ragazzi dell'82 hanno chat WhatsApp come quella del 2006. Ma non c'era WhatsApp, però potremmo farla adesso. Bella idea, eh? Questa è interessante. Sì, com'è la storia WhatsApp dei campioni del mondo? WhatsApp privata? Te l'ha raccontata Gattuso, no? Sì, Cannavaro è l'amministratore. Sai che WhatsApp ha nelle chat di gruppo c'è un amministratore, quindi uno che diciamo ha un pochino più potere degli altri, che è quello che invita, ed è una chat che mette dentro tutti, e chiaramente, c'è una cosa divertente, che Cannavaro ha messo la foto sua che alza la coppa e Gattuso dice che è il solito esagerato. Com'è stato quel viaggio in treno divertentissimo, perché poi i calciatori, è chiaro che insomma tante volte li sentiamo nelle interviste preoccupati di magari dire una cosa che possa essere travisata, soprattutto quando sono in attività, insomma abbastanza democristiani quasi sempre nel rapporto con i media, però poi insomma Cannavaro e Gattuso sono due numeri uno, sono due ragazzi molto simpatici, quindi è stato un viaggio divertente. A un certo punto ci siamo messi proprio a cazzeggiare, e quindi bene, molto bene. Senti, un'altra cosa invece che volevo chiederti, approfittando delle tue conoscenze e amicizie, il momento della Sampdoria, questo litigio tra Cassano e l'avvocato di Ferrero, addirittura prima ho letto una cosa, ma credo sia un fasullo, secondo cui sarebbe stato licenziato con un telegramma, non è assolutamente vero, no? No, è stato smentito dalla stessa società, è chiaro che è un momento un po' di complessità, io credo che ci possa essere stato un momento, diciamo così, di elettricità nello spogliatoio, ma insomma, credo che sia già tutto rientrato, e poi sai, insomma, Cassano ha un curriculum da questo punto di vista abbastanza nutrito, e quindi adesso... Ovviamente fa sempre notizia, no? Poi magari ci sono giocatori con un'immagine diversa, con un carattere diverso, che questo genere di situazioni magari le hanno vissute, ma senza che da questo punto di vista poi ogni volta ci sia questo risalto. Però insomma, Cassano questo se lo merita, perché chiaramente quando c'è un curriculum di Cassanate come quello che c'ha lui è normale che sia così, insomma, sarebbe assurdo il contrario. Non lo so, io penso che la Samp debba capire che vuole fare nella vita, perché insomma nel giro di 24 ore, di 48 ore, Cassano e Montella, che comunque hanno due riferimenti, anche se sicuramente anche loro protagonisti di una stagione non positiva, praticamente sono stati fatti fuori nei fatti. Poi vedremo, insomma, la situazione è in evoluzione, però credo che già ci sia stata una ricomposizione. Ma Montella in nazionale come lo vedresti? E poi soprattutto Gasperini lascia il Genoa? Così, io Montella quasi, in nazionale non lo vedo tantissimo. Non lo vedo, nel senso che secondo me Montella viene chiaramente da una stagione sbagliata, nella quale è entrato in corsa, e questo non è mai facile, è un po' un altro sport. Io gli consiglierei di rimanere alla Samp, se ce ne saranno i margini, anche se sembra di no, o di ricominciare un'avventura potendo pianificare una squadra, una campagna acquisti. Lo vedo più adatto per questo. A me intriga, per esempio, non ti nascondo, De Biasi intriga sulla panchina nazionale, perché è un allenatore di lungo corso, un allenatore risolto assolutamente, che non ha l'ambizione di andare a allenare il Chelsea o il Manchester City, e poi viene da un'esperienza da selezionatore, quindi stiamo parlando dello stesso sport, che avrebbe positiva. Molto positiva, quindi perché no? Ma Gasp perché non se ne parla mai? No, non lo so, perché secondo me è un eccellente allenatore, tutti dicono Montella al Milan, io fossi nel Milan in questa condizione, è chiaro, vediamo come va questa trattativa, però prenderei Gasperini, cioè uno in grado. Io avrei preso Di Francesco. Di valorizzare, o Di Francesco, che però rimane a Sassuolo. Sì, Gasperini però viene da un'esperienza, cioè l'unica vera esperienza con un grandissimo club come l'Inter è stata negativa. Dai, sì, però, per Luigi, sì. È delicata questa metafora. Ma è un colito interrotto, cioè non è stata un'esperienza compiuta. Fortunato, buongiorno. A lei, Genta. Buongiorno, dica. Buongiorno. Allora, il mio intervento era riferito alle dichiarazioni di Lucazzoni e chiaramente al fatto che lui lascia in maniera definitiva almeno il calcio dal punto di vista giocatore, e secondo me sta ampiamente sbagliando, e spero che ci ripensi, perché secondo me il fatto che possa seguire il Verona nel B, riesca a dargli una mano a tornare in A, secondo me lo lancerebbe nell'Olimpo dei Santi, del Sancta Santorum, secondo me. Non so cosa ne pensa lei. Sì, però io penso che a tutte le storie, anche quelle meravigliose come quella di Toni, ci debba essere una fine, ci debba essere un punto. Toni ha capito che non è più per lui la vita del calciatore, è inutile ballare una stagione di troppo, quindi io rispetto profondamente la decisione di Tony, che tutto sommato si ritira magari avendo ancora un po' di benzina nel serbatoio. Siamo qua a dire a Totti che mi raccomando, non chiudere male, Tony che poi chiude è chiaro bene, che questi che questi non li vorremmo mai vedere, non li vorremmo mai andare via, non li vorremmo mai vedere andare via, però è fisiologico, succede. Non c'è una regola perché poi alla fine sì, ci sono degli addii un po' più malinconici, però non lo sai mai prima. È difficile avere la freddezza per andarsene nel momento nel quale sei al picco, cioè devi avere veramente grande forza. Borg è uno che si è ritirato molto giovane, in una settimana. Platini anche, insomma. Però nel ritirarsi sicuramente ci hanno tolto qualcosa, perché qualcos'altro avrebbero continuato a vincere, qualche altra pagina memorabile, magari non sui livelli di prima, ma l'avrebbero comunque conquistata. Quindi una regola secondo me non c'è da questo punto di vista, non c'è una cosa giusta, a prescindere. Poi io trovo che sia piuttosto triste veder tramontare in campo un campione, ed è per questo che continuo a sperare che Totti decida di chiudere con questo meraviglioso ciclo di partite finali con la Roma. Facciamo un salto in Calabria al Giro d'Italia in attesa di altri ospiti, di altri ascoltatori. 800 24 00 24 in Calabria, perché lì ricomincia il Giro oggi. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Che succede? Succede che fa caldo, c'è una fuga di 4 corridori, però il bello deve ancora arrivare, perché a 10 km dal traguardo oggi c'è un bello strappo, piuttosto duro, il 18%. E temo fortemente per il nostro Vincenzo Nibali, perché non è adattissimo a lui. Speriamo che riesca a tenere. Corridori come Alejandro Valverde sono molto più agevolati, essendo lui scattista e quindi capace di fare la differenza su degli strappi così duri, così selettivi. Certo, anche quindi oggi queste saranno punture di spillo, però a livello psicologico non fa mai piacere rimanere dietro. Quindi io mi auguro fortemente che oggi Vincenzo dia un segnale importante, almeno di tenuta. Certo, il cammino è lunghissimo e sappiamo benissimo che questo Giro d'Italia, come sempre, si giocherà nell'ultima settimana sulle grandi salite, però cominceranno a logorarlo, ad attaccarlo sin da oggi è un arrivo piuttosto ostico. Hai raccolto qualche parere, hai raccolto qualche voce, hai raccolto qualche indiscrezione? Come stanno? Guarda, ora, come stanno ho raccolto i corridori? Questa mattina la preoccupazione della Marvia Rosa Kittel, che è stato acclamatissimo, veramente rockstar, osannato da tutti e da tutte soprattutto. Però lui è molto preoccupato, perché dice 9 secondi su Dumoulin, oggi c'è troppa salita, io non ce la faccio a tenere la maglia. Quindi lui è già quasi abdicato e spera poi magari di non perdere tanto e prenderla più in là. Dumoulin, Valverde e il nostro Moreno Moser ci stanno facendo un pensierino. Anche Moreno Moser è sesto in classifica generale, non è staccatissimo, c'è qualche secondo, ne ha ben 21, e potrebbe anche lui essere uno dei protagonisti, perché tecnicamente è un brevilineo capace di assenare lunghi rapporti, ma con buona agilità. Quindi vediamo un po', il giro ancora è appena all'inizio, quindi hanno tutti grandi energie. Sì, immagino però che non sia stato facile passare dalle latitudini nordiche dell'Olanda alla primavera, alla calda primavera del sud. Esatto, la preoccupazione dei corridori è che sono passate da delle temperature molto miti e gentili ha un caldo che comincia a farsi sentire, ci sono 28 gradi e quindi il balzo è notevole. Che meraviglia! Sono partite alle 12:20, quindi proprio quando la giornata comincia a far più caldo, e quindi si faranno tutto il pomeriggio sotto il sole, e non è una cosa semplicissima, non ci sono abituati. Che meraviglia! Pierluigi, qual è stato il tuo rapporto con il Giro d'Italia da ragazzino? Io vorrei tanto fare l'inviato, vorrei prima o poi fare... hanno rinviato, perché penso sia una cosa bellissima. In realtà io ho progetti enogastronomici più che altro, però credo che sia veramente, me lo racconta Crosetti, me lo racconta Paolo Condò, quindi anche ovviamente c'è Gianni Mura che è una leggenda su Giro Tour, insomma anche giornalisti che si occupano magari più di calcio, insomma l'esperienza del girare, della carovana, del gruppo di persone che si ritrovano la sera, è una meravigliosa, insomma, gita scolastica, sì, per adulti, sì, sì. Quindi prima o poi spero di riuscire a farlo. Capito, Pier Augusto, mettici una parola, sì, buona, mettici una parola buona, sì, esatto. Tra l'altro ha citato tre colleghi bravissimi che in quanto a cultura enogastronomica non sono, esatto, secondi nessuno, esatto. Secondo me c'è un nesso fra la, no, quindi no, il Pier è già ben proiettato, sì, già capito grosso modo come vorrebbe, ma c'è un nesso come gira il, attenzione, vento, perché c'è un nesso fra la cultura enogastronomica e il fatto di essere bravi giornalisti, secondo me. grazie Pier Augusto, grazie a voi, ci vediamo domani, grazie. C'è Alessandro Moggi, c'è Alessandro, come Moggi va? Ciao. Buon pomeriggio, tutto bene, grazie. Buon pomeriggio, Alessandro Moggi che, insomma, sappiamo, fa il procuratore sempre. Non ti chiedo Immobile dove va. Immobile che fa? Che fa Immobile? Beh, vediamo, è sempre di proprietà del Siviglia, però il Torino ha la possibilità di esercitare un diritto di riscatto entro la fine della stagione per poterlo riportare in maniera definitiva a casa. Il però, giocatore gradisce l'ipotesi di rimanere, sì? Il giocatore, sì, diciamo che gradisce, ha voluto forse a gennaio tornare al Torino. È chiaro che dovremmo fare anche dei ragionamenti con il Toro per capire un attimino anche quali sono i programmi futuri, però assolutamente una destinazione di gradimento. Assolutamente. Senti, però noi siamo qui per parlare di Sport Hashtag. Che cos'è? 24-25 maggio a Londra ci sono delle adesioni pazzesche: Juve, Milan, Manchester City, NBA, ATP, Barcellona, Real Madrid, Twitter. Ma che fate? Sai tutto, sai tutto. Che sai fate? Tutto, va bene. Ma che fate a Londra? Hashtag è un'evoluzione di un progetto precedente che, come probabilmente qualcuno si ricorderà, che aveva ideato Gea, che era Expo Goal, che era un po' una sorta di motor show del calcio che aveva visto la luce nel 2003 fino al 2006. Poi abbiamo deciso di interrompere a un certo punto e negli ultimi anni abbiamo pensato di riproporre un progetto in maniera un pochino diversa, più moderna, anche grazie allo sviluppo del business digitale, che chiaramente coinvolge anche le club, le squadre di calcio, quindi nel settore sportivo, che praticamente dimostra che questo mutamento anche di nuove entrate che ci possono essere oltre a quelle classiche dei diritti televisivi. Quindi abbiamo pensato bene di mettere all'interno dello stesso contenitore, che poi è l'Emirates Stadium, quindi lo non un brutto posto, l'Arsenal, diciamo, esatto. E abbiamo pensato di mettere insieme aziende che operano nel settore digitale, del business digitale, e tutti o tanti tra i club più prestigiosi del mondo, che sono quelli che poi hai citato tu adesso. Ecco, cioè è proprio una specie di G8, G14, G20, fai tu, insomma, dei grandissimi club, perché appunto ci sono Barcellona, Real Madrid, perché ci sono le grandi istituzioni. L'Italia, da questo punto di vista, questa cultura digitale, dei social network, del marketing sportivo che nasce inevitabilmente anche da questo punto di vista, mi spiace che non ci sia Beninazzo, perché anche lui sicuramente ha delle idee in proposito, a che punto è? Cioè abbiamo un gap da questo punto di vista da dover colmare, oppure siamo in linea? Abbiamo un gap senza dubbio da dover colmare, come tu sai, come spesso capita purtroppo il sistema calcio Italia dimostra sempre di avere un gap rispetto in particolare alla Premier League, se vogliamo, ma anche alla Bundesliga, ma proprio a livello di numeri e anche di idee innovative. Io ci tengo a sottolineare che c'è probabilmente la prima azienda italiana del settore che porta all'estero un progetto così importante, anche perché noi ci poniamo l'obiettivo di diventare un punto di riferimento proprio per il business digitale nel settore dello sport. Non ti dimenticare, o forse come hai detto tu prima, la sottolineatura che oltre ai tanti club, quindi Milan, Real Madrid, Barcellona, la Juventus, eccetera, faranno parte anche di questo grande evento anche l'ATP, l'NBA e probabilmente la Ryder Cup. Quindi cerchiamo di essere più trasversali possibili proprio per raccontare che lo sport vive un'evoluzione importante nell'ambito digitale. Bene, 24 e 25, grazie. Poi lo continueremo a seguire magari live con contributi in questi due giorni. Grazie Alessandro Moggi. Grazie, ciao, un abbraccio. Siamo riusciti finalmente a connetterci con il professor Marino Bartoletti al Giro d'Italia. Ciao, ma Marino. Era così difficile, buongiorno. Tanti saluti da Santa Maria del Cedro, appena a nord di Amante. e a pochi chilometri a sud da Praia Mare, dove, come sapete, sta per arrivare la quarta tappa del Giro d'Italia. Non... E sotto questo sole sono in compagnia di Paolo Belli, che mi fa da grande. Grande. Ieri sera, scusa se faccio un attimo l'autoreferenziale, Tiki Taka sembrava Sanremo, che avevo 5-6 cantanti. Posso chiederti una cosa su Bocelli? Perché... insomma, ieri mi ha commosso, perché insomma gli abbiamo fatto riascoltare la canzone Il Nessun Dorma vicino a Ranieri, e insomma, la semplicità nella grandezza, nell'essere veramente personaggio mondiale di questo ragazzo mi ha veramente commosso. Allora, siccome Marino è un esperto di tutto, ma anche e soprattutto di musica, volevo una tua... Allora, Bocelli arriva tardissimo al Festival di Sanremo, ci arriva che ormai ha 37 anni, con una storia umana molto, molto importante, molto, molto intensa, piena di sacrifici. Lui e Leandro Baldi non negano di essersi conosciuti a quello che chiamano tranquillamente l'Istituto per Ciechi di Reggio Emilia, dove è maturata non soltanto la loro amicizia e anche il loro talento. Ci ha messo un pochino ad affermarsi, perché effettivamente... La sua poteva essere non soltanto una figura professionale, ma anche una figura umana, lo dico con malinconia naturalmente, che andava in controtendenza. Però quando è arrivato al Festival di Sanremo, noi di Bocelli abbiamo visto soltanto i limiti e non certo gli handicap, ammesso che ne abbia. È una delle più grandi voci mondiali che esistono, ma soprattutto è uno dei più grandi italiani che esistono. Ed è incredibile la gioia con cui riesce ad esorcizzare tutto e a vivere quanto e più di quanto non viviamo noi. Prima, quando mi hai detto l'ho messo assieme a Ranieri, perdonami, ma in questo momento ho pensato a Massimo Ranieri. Sì, no, certo. Perché ormai sai, le distorsioni di questi giorni mi stanno portando un pochino fuori strada. Però contaminazione, la parola, Maria, la parola figa. Io ti chiedo però un paio di voti. Uno è su quello che stai seguendo, come tutti sanno, Giro d'Italia, la prima storia è quella di Kittel e della bellissima Tess. 300 metri alla conclusione, c'è ancora Sabatini davanti, Marcella Kittel, attenzione a Porsev che sta avanzando dall'altra parte della strada dove taglia adesso Fabio Sabatini. Kittel è davanti con Viviani alla sua ruota, Marcel Kittel in prima posizione, Marcella Kittel per il bis, Marcella Kittel imbattibile, in condizioni tra virgolette normali, ancora una volta ha dimostrato di essere di un'altra categoria, imbattibile Marcel Kittel a Nijmegen, così come oggi ad Arnhem. Allora Marino, voto a Marcel e voto a Tess, che lo bacia dopo ogni vittoria, teneramente. Naturalmente un bel voto, intanto per quello che sta facendo. Devo dire, se passate l'opinione tecnica, che è bellissimo Kittel, è veramente un attore, questo anche a testimonianza che, come dire, la tipologia del corridore ciclista, che a suo tempo non era esattamente un Adone, insomma, è diventata veramente quella di ragazzi bellissimi anche dal punto di vista strutturale, anatomico, eccetera, eccetera, eccetera. Il voto è leggerissimamente abbassato, ma immediatamente rialzato dal fatto che quest'anno Kittel è venuto a correre anche in Italia. Forse ricorderete che qualche anno fa il Giro partì all'estero, lui si vinse le sue belle tappe al Giro, chiamiamolo Giro, anche se in realtà quando parte dall'estero io avrei delle riserve da fare che il tempo in questo momento non ci consente. A Bari non venne, dice fatevelo voi il Giro d'Italia, io ho vinto soltanto le direttive internazionali. Quest'anno è venuto e secondo me è il favorito anche di oggi. La tappa è molto dura, noi stiamo facendo il lungomare, quindi in totale relax, la parte piana, però ci sono due o tre rilievi, due o tre dentini, come dicono quelli che sanno parlare in ciclistica, che potrebbero far selezioni, ma dato che la nuova genia dei ciclisti velocisti può tranquillamente, e ce lo insegnò Cipollini, di cui Kittel è il primo erede, può tranquillamente superare questo tipo di imbarazzi, credo che anche per oggi il favorito sia lui, anche se si parla di Nizzolo, anche se si parla di Ulissi, anche se si parla, lo chiedo a Belli, di Visconti. Di Sonny Colbrelli, insomma, vi abbiamo detto tutti quelli che possono essere i potenziali vincitori. Il voto a Kittel è 8, naturalmente. A Kittel è 8 e a Tess pure, facciamo così. E a me, scusa? E a Tess, la fidanzata pure. A Tess, non a te, a Tess. Beh, a me per modestia direi 6 meno naturalmente, ma la ragazza effettivamente ha colpito più e quanto del fidanzato. Senti, un ultimo minuto e mezzo e una battuta sulla vittoria di Schwarzer, le parole di Donati, altro evento di questi giorni. A settembre e a ottobre io gli ho fatto fare due test e lui fece nel primo test la migliore prestazione mondiale dell'anno su 10 chilometri e poi nel secondo test su 20 chilometri fece meglio del vincitore del campionato del mondo a Pechino. E quindi da allora è stata una ulteriore crescita, quindi un percorso forte, diciamo fin dall'inizio, di un campione che si poteva proprio evitare del tutto che scivolasse nel doping. Sarebbe bastato mettergli accanto delle persone attente, capaci, non negligenti, e non sarebbe successo. Arino Bartoletti, ci crediamo? Sì, poco da aggiungere, anche se evidentemente Schwarzer all'epoca era maggiorenne, vaccinato, eccetera, eccetera. Io sono tendenzialmente portato all'indulgenza, e lo sono anche in questo caso, anche se seguendo questo sport che sto seguendo in questo momento, qualche scottatura l'ho presa e non avrei più le mani per tutte le volte che ho detto ci metterei la mano sul fuoco. Ti innamori di questi ragazzi, parlo di ambasciatori, parlo dei ciclisti, parlo dei fondisti, parlo di quelli che faticano veramente, chiaramente la delusione è decuplicata. Mi sembra che la sua ordalia, il suo percorso umano, il suo cammino sui carboni ardenti l'abbia fatto tutto. A questo punto prendiamo la parte buona della sua favola, che ha avuto delle derive sinceramente un pochino complicate, un pochino antipatiche. Non sto con Tamberi, che non si capisce perché ha preso in mano la clava della giustizia dal suo punto di vista, capisco chi lo vuole e chi lo può criticare, ma credo che questo sia il momento dell'indulgenza nei suoi confronti, forse anche dell'ammirazione. Sì. Grazie Marino, grazie. Grazie. Grazie. Sette per fare. Sette. Sono a un chilometro dall'arrivo. Un chilometro d'arrivo, Marino Bartoletti. In testa a tutti. Alla prossima, Marino Bartoletti. Ciao Pierluigi. Mezz'ora al gruppo. Andato. Io domani vado a Cibus a Parma. Io vado al tennis a Roma e ci sentiamo. E facciamo. Quindi prendiamo strade separate. Vabbè, però insomma. Io anche se non vado a Cibus, mangerò. E no, tu, anche se non vieni al tennis, vedrai un po' di tennis. Vabbè, non mi tradire. No, figurati. Ciao. Grazie a Alessandro Marcottulli, nostro autore, e a Federico Bindi in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani da Cibus. Signori, alla prossima!